voi chi diavolo vi credete di essere? Siete solo Hobbits! Voi mi assalite come un branco di lupi affamati perché non sopportate la vostra realtà e il vostro modo di essere! Sì, il mondo è un posto veramente terribile! Sì, la guerra sta arrivando! Il mondo è andato al diavolo e voi siete tutti fregati! È tutto sotto sopra, ma a voi sta bene così, no? 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Non si può passare dalla totale indifferenza all'isteria. Quando sento dire che o noi interveniamo in Libia o arriveranno da noi gli attentati, io vorrei dire innanzitutto a ciascuno di noi che gli attentati che si sono verificati in Europa in queste ore sono tutti figli di cittadini europei. A me sembra che Gentiloni e Pinotti abbiano una voglia matta di mettersi l'elmetto, invece adesso è il tempo di ragionare. Io dico che questi quattro smandrappati dell'ISIS, si vede benissimo che un esercito serio come quello del presidente egiziano gli sta facendo un culo mandolino. Così ci affidiamo alla signora Pinotti, per l'amor di Dio, cioè, però se invece di stare al Ministero della Difesa aprisse una boutique sarebbe meglio. Sembra tanto pronta! Quando si è presentata alle primarie per fare il sindaco di Genova è arrivata terza su tre. Cosa fa? Perde le primarie col PD e vince con l'ISIS? C'è un po' di tutto, come vedete, c'è un po' di tutto. Quando gli italiani si approcciano o rischiano di approcciarsi alla guerra, così esce fuori di tutto. Poi giudicate voi. Queste sono alcune delle frasi colte qua e là, sempre straordinario Crozza con la sua ironia. Era l'ultimo arrivato in ordine di audio. Sono le 6:33 minuti, devo dire che oggi sono anche un po' emozionato perché, vabbè, la voglio subito salutare. Dai, Paola, buongiorno. Signora Saluzzi. Io sono un po'. 2015, evviva le rosse, torna, ma diventa evviva la Paola. Sono un po' emozionato. Paola Saluzzi e Paola Saluzzi, special guest Paola Saluzzi e altri quittizi di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Diciamo con la stessa pomposità che potete ascoltare, Paola Saluzzi ha rivelato all'intero mondo e al globo terracqueo di essersi, giuro che poi finisco, ma almeno un minuto, di essersi sposata. Ebbene sì. Ma porcaccia la miseria, ma evviva! Auguri! Ma sei e siete meravigliosi, grazie. Paola Saluzzi, sei sposata, mannaggia. Ebbene sì, accadeva quasi 6 mesi fa. ma in silenzio, così, in silenzio, per non... appunto. Ma è così, perché così, per riservatezza, ecco, non per fare gli snob, ci mancherebbe altro, no. Però certo, una marcia nuziale così fa piacere. C'erano anche i fuochi d'artificio, c'erano, tu non li hai sentiti, ma c'erano. Ho sentito nulla della formidabile regia. Poi devo dire, voglio subito salutare il direttore Luca Dini, e qui mi faccio un po' severo, perché secondo me, visto che il fortunatissimo marito di Paola Saluzzi è un giornalista anche di Vanity Fair, direttore, vabbè, però forse tu sapevi qualcosa, avevi intuito qualcosa, forse avevi intuito qualcosa, forse sì. Possiamo dirlo, però, il grande Gabriele Romagnoli, non è un mistero, ormai, cara Paola, basta. Sì, poi... però voglio dare un bacio a Luca Dini, e lo chiamo Luca Dini e non direttore, ma un abbraccio grande, perché... Che siamo già al tradimento, volte... no. Sei mesi, nel senso, sei mesi e sei capitolata così. Una cosa così bella, ma insomma, sei proprio un pelino la peste. Scusa. Allora, perché ci sono persone straordinarie con le quali si può anche condividere a volte così una notizia stando tra amici, ecco, tutto qua. Ribadisco, non per snobismo, non perché ci fosse così qualcosa da non dire, anzi il contrario. Mm-hmm. Semplicemente perché siamo due soggetti riservati. Vabbè, mi ha mandato un messaggio subito Andrea, che dice: forse stanotte a sto punto si è sposata pure la Boschi, caro Milan. Non lo so. Questa è bellissima. Diciamo, e insomma, meraviglioso. Come dire, datemi un colpo al giorno, non è che posso due non saprei reggerli. Va bene. Pare di no. Il direttore dice di no. Sì, era informatissimo, appunto. Insomma, direttore di qualcosa, i buoni amici a volte quando stanno anche zitti, ma allora. Ma certo. Mi piaceva questa cosa. Assolutamente. Adorato. Va bene. Allora, saluto Lorenzo Nespoli, qua in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia, ma scusate, ma qua bisognava festeggiare dovutamente. Bombardino per tutti. Champagne per tutti, apriamo il Parlamento. Oggi champagne e bombardino a fiumi. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo per mano. E poi il ministro Boschi. Parlamento. Va bene, ragazzi, questa è fatta. Come dire. Ero un po' emozionato, ma... No, io sapevo che Alino Milan avrebbe costruito qualcosa di, come dire, impagabile. Sì, sì. Non immaginavo fino a questo punto. Ebbene sì, ragazzi, ma la cosa divertente è quando si ha anche degli sposi che messi insieme fanno 104 anni, come non può dire io. facciamo sorridere anche. Non sapevo che Romagnoli ne avesse 70, insomma. Ma ne ha 70, ma sei fantastico. No, ne ha solo 54. Ah, va bene. Solo, quindi fate il conto, fate il conto. Insomma, 104 meno 54, forse anche noi alle 6:38 riusciamo ad arrivare a fare questa almeno questi conti tornano, e esatto. Poi forse altri non tornano, abbiamo appena sentito, ma come dire, affrontiamo questo mercoledì mattina non col tono d'armata Brancaleone. Altri ma no, ma siamo un po' armata al Brancaleone, però Luca Dini, hai seguito un po' quello che sta succedendo? Ministri che dicono prima andiamo, poi non andiamo, poi l'ONU, poi di qui, un po' siamo armata Brancaleone, o no? Sì, devo dire, ho trovato come sempre fastidioso il sottinteso che la Pinotti non sarebbe all'altezza, sostanzialmente perché è una donna, perché poi alla fine siamo sempre lì, cioè, dici? La boutique, eccetera. Ah, la boutique è quella, non tanto sì, Crozza, sì. Apra una boutique, era Vittorio Feltri. Cioè, perché capite, bisogna essere macio per fare il ministro della difesa. Bisogna essere la russa. La testa, il cervello. Bisogna essere la russa. Detto questo, la questione è molto... avrei molto più problemi, più paura se fosse la russa. Eccolo lì. Però il problema è che è tutto molto complicato, cioè si fa presto a giudicare, a criticare da un salotto televisivo, da una poltrona. La questione è complicata, secondo me Renzi ha ragione a dire, ha avuto ragionissima a dire, ricordiamoci che questi attentatori sono cresciuti qui e sono cittadini, concittadini nostri. Sì, come quello in Danimarca, per dire. Esatto. Giusto per, certo, il nome, come si diceva da tre giorni, non suona molto danese, però chiaramente... Però è un concittadino, anche se non suona danese. Visto che hai citato, no, guarda, ce l'ho qua, il giornale, vabbè, Vittorio Feltre, sempre la firma, quindi insiste. Troppi tagli all'esercito, al limite faremo la guerra dei bottoni col ministro Pinotti che darà battaglia in merceria. Eccola qui, forse la boutique era la merceria, evidentemente, che voleva far aprire Vittorio Feltre. Che dobbiamo fare? Vabbè, Il resto Italia, la difesa non li ha mica decisi lei. E non nascono oggi, voglio dire. Sì, che noi siamo sempre un po' così arruffati quando Paola Letta, ti piace questo? Sì, un po' arruffati. Allora, meglio non avere, come dire, guerra fondai all'opera. Mm-hmm. Meglio velocemente far riprendere, anzi far prendere in termini ancora più ufficiali a Romano Prodi quel compito che è stato suo e che è stato fortemente richiesto dall'interno della stessa Libia mesi fa a quest'uomo, che evidentemente sa trattare, bien inteso, sa trattare con coloro che ora hanno voglia e necessità di trattare, cioè governi, tribù, stati tribali all'interno di uno stato che sono sempre esistiti. Ecco, forse è meglio muoversi velocemente, la diplomazia, con estrema velocità, dici, la diplomazia ci vorrebbe, che non così pensare, anche se io tutto questo scandalo sul prima facciamo un intervento militare e poi non lo facciamo non l'ho avvertito, perché ci sono frasi che si possono dire. Chi di noi non ha pensato all'idea che, insomma, mettere un freno e cercare di fare qualcosa in prima chitto, appena visto quella scena e visto il mare di Tripoli, non fosse giusto? Ma peraltro, cioè, c'è chi l'ha fatto, per esempio il presidente egiziano non è che ci ha pensato due volte quando gli hanno decapitato, sì, l'ha fatto, 21 egiziani, è partito, ha fatto saltare, ha preso e partito, salire, sì, caccia. Certamente, ecco, diciamo che però non è stato decapitato nessun italiano, vogliamo metterla così, vogliamo dire che siamo ancora nel gruppo dei fortunati rispetto al disastro che sta succedendo? Sì, il problema è che la situazione, per esempio, dei migranti è una situazione tutt'altro che semplice. Sentite che cosa ha fatto, lo scrive oggi Repubblica, il prefetto di Treviso. Sono arrivati talmente tanti immigrati, i centri sono al collasso, le strutture non reggono, da Agrigento li hanno mandati un po' a Treviso e il prefetto di Treviso ha ordinato a 39 immigrati di disperdersi, con tanto di bolla ufficiale, di provvedimento del prefetto, abbiamo preso le impronte, abbiamo cercato, e poi li ho invitati a disperdersi, li abbiamo accompagnati alla stazione. Cioè, ma voglio dire, Luca, capisco le emergenze, ma a evaporare, lo so, ma può un paese reagire così? Cioè, no. Voglio dire, con un prefetto che è costretto a dire fate ciò, noi non ce la facciamo, fate quello che volete, andatevene. Questo è il rischio che quella che viene definita anche l'arma umana brutalmente venga utilizzata da chi gestisce poi gli sbarchi. Vogliamo sentire ancora Crozza, il buon Crozza, su Gentiloni. Guarda, da chi dipende giova la nostra sicurezza nazionale. La Pinotti faceva il capo scout e Gentiloni nel suo curriculum ci ha scritto capo ufficio stampa di Rutelli, che già se sei Rutelli non conti un cazzo, no? Figurati se sei in ufficio stampa! Vabbè, questo è. Però, caro Luca, cara Paola, questo è il buon Crozza. Che vuoi dirci, Paoletta? Che è Crozza, ecco. Ecco, sì, che è Crozza, prendiamola così. Via, ci aspettavamo, non certo che giustamente, che non facesse una conferenza stampa in termini contrari. Stiamo stretti, stiamo vicini in questo momento. Ecco, io dico questo come paese, cioè siamo compatti. Ecco, non vuol dire vogliamoci bene, stiamo compatti. Cioè c'è una linea da tenere. Oggi il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che le Nazioni Unite tengano fede al proprio nome, e noi vediamo di tenere fede a un nome di nazione. Cioè, poi puoi essere d'accordo o non d'accordo, però cerchiamo di stare fuori dalla polemica politica. Questo l'ho detto anche ad uno dei miei ospiti, che Ma sai che in Italia bisogna buttare in polemica sì. Il Bach è colpa del governo, ovviamente è sempre così. Posso aggiungere una cosa sulla questione delle donne, perché c'è anche da dire una cosa: siccome questo orrore è quasi totalmente maschile, diciamo che se ci fossero solo le donne probabilmente l'ISIS non esisterebbe. Secondo me bisogna veramente aspettare un attimo prima di sparare metaforicamente contro un ministro, sostanzialmente perché non ha un aspetto bellicoso, oppure non ha fatto la caposcout e tutte queste altre amene sciocchezze, anche perché io non ricordo, insomma, dei ministri della difesa così capaci e decisivi. Vabbè, ma insomma in Italia si sa che non ce l'abbiamo avuto mai con il ministro della difesa. Buttiamo sempre in polemica su tutto, esatto. Però con i signori dei salotti TV li manderei volentieri. Eccolo lì a combattere contro l'ISIS, lancia in resta la barda in mano. Borghezio che si fa avanti e combatte contro l'ISIS. Borghezio contro l'ISIS. Lo vedi, eh? No, vabbè, allora, della verità, la migliore è sempre stata 3 giorni fa di Federico Novella, che ha proposto di mandare in loop su Radio Racca il volo "Li uccidiamo così", quella che ha vinto Sanremo. Li uccidiamo così quelli dell'ISIS. Li uccidiamo di noia, noi. Va bene, c'è David da Roma, o David, che scrive: Paola, no! Io ero disposto anche a prendermi cura della tua gattina. Sei veramente... Grazie, sono onorata. E c'è chi mi scrive: Marcello da Firenze, si è sposato anche Rossella Brescia. Sì, lo so, ma questa è, però era una notizia abbastanza, insomma, si sapeva. Alessandro, ma proprio Luciano Cannetto. C'è la Boschi. La Boschi sposa con due S. STOSTA. Ah, sai che sposa. Chissà come suonano. Bene. Il traffico. Dai. 24 mattino. E sicché il nostro grande statista vuole la guerra, nei coglioni. Vuole la guerra e chi ci va? Ma che per caso fa come la regina, anzi mi auguro che faccia come la regina, ci ha mandato i suoi nipoti, lui chi ci manda? Milan, se è vero che un thailandese ha offerto 1 miliardo di euro per l'attuale Milan, venderlo subito! Ho sentito di nuovo Renzi che annuncia le cose meravigliose che farà per la scuola. Ma quando smetterà con questi annunci ciclici? E quando incomincerà a fare qualcosa? Basta annunci, vivi gli asso un bruciaculo! Basta annunci, vivi gli asso un bruciaculo! Caro Milan, come stai? Senti un po', hai preparato l'ermetto per la guerra? Ma sta tranquillo che tanto Renzi non farà sparare neanche un colpo. Sai che farà? Combatterà i musulmani con un mazzo di fiori. Questo è lui, eh? Ah, un affettuoso abbraccio alla signora del mercoledì. Quella sì che è una signora. Ciao! Adesso poi signora con la S maiuscola. Oggi ci casca. Che sapeva forse qualcosa il contadino di te? L'ha invitato? No. Non era invitato. Eravamo in tre briganti e somari. No, come cita, insomma, è Rinaldo in campo. No, non l'avevo invitato, però lo ringrazio. Non l'avevo invitato. Va bene, io vi devo far sentire il brunetta del giorno. Possiamo andare avanti senza il brunetta del giorno? Non possiamo. Tu dici? E invece no, io voglio bene ai miei ascoltatori, so che sono affezionato al brunetta del giorno e quindi eccolo qua. Io ho ascoltato con grande attenzione il suo discorso alla direzione di ieri, a parte che mi ha citato 7 volte, quindi probabilmente ha l'ossessione di chi gli fa ovviamente opposizione vera, e questo la dice lunga sullo suo spirito democratico. Dovrebbe apprezzare chi gli fa opposizione vera, o vuole tutti asserviti, o vuole tutti iscritti al PD. Ecco. Parlava di Renzi, eh? Renzi è ossessionato da me, capito, caro Lucadini? Di quello che pensi, stai attento, che Brunetta poi dopo si arrabbia. No, vabbè, in questo caso devo dire non ho niente da dire, nel senso che è vero che lui deve fare opposizione, però ecco, secondo me lui è felicissimo di essere stato citato 7 volte, probabilmente avrebbe preferito 12. Quindi. È felice, vabbè, chi lo sa, chi lo sa. Vabbè, ma avete sentito invece questa storia di Strauss-Kahn che è stato prosciolto? Io sinceramente comincio a pensare davvero che ci sia stato anche un po' di accanimento, eh? Uno poi giudica quello che vuole, però cioè la condotta sessuale, e noi ne sappiamo qualcosa, tanti fanno i paralleli, anche con qualcuno che non cito, ovviamente Paola Saluzzi, lo citerà Paola Saluzzi, mi riferisco a... si vogliono portare parallelismi con Silvio Berlusconi, ebbene sì. Ah, ecco. Sì, in effetti... Dio mio, che non sia uno, non perché si voglia uno stinco di santo, non indico il contrario, ma ognuno fa un po' anche quello che vuole. Però probabilmente se tutto cade, tutto decade, c'è stata una forma di accanimento. Dai, un po' di voyeurismo c'è stato. Per carità, anch'io ho letto le testimonianze, le ho lette anche in onda. Sono detto un po' odioso, insomma, voglio dire, se questi sono i comportamenti. Ma sì, va bene. Però forse c'è stata un'esagerazione di attenzione. Lo si voleva far fuori perché era troppo rapida, nel senso si sapeva dove sarebbe andata a parare la sua formidabile carriera? Sì. Non lo so. Sì, caro direttore, tu però, direttore, appunto, che faresti? Pubblicheresti tutto queste cose, le orge? Lui dice: ma erano serate libertine, uno fa quello che vuole sotto le lenzuola. Cioè, secondo me, io penso sempre che la privacy delle persone a questi livelli abbia dei profili diversi. Quindi, io credo che un conto è la questione penale, un altro è quella politica. Sì. Se uno ha delle abitudini che diventano così devastanti, così che secondo me ti impediscono sostanzialmente, ti rendono ricattabile, la tua carriera politica è finita. Su questo si può molto discutere. Effettivamente, uno dice: non puoi, se tu vuoi avere un profilo molto alto, hai questo. Sei ricattabile. Sei ricattabile. È ricattabile, non puoi fare quel lavoro lì, io credo. Però poi che vada a finire tutto in tribunale, vabbè, comunque è stato prosciolto. Lui dice: sapevo da 3 anni che era tutte bufale. Il dato di fatto è che è stato leggermente sputtanato, questo sì, si può dire, se ancora, sì, appena. Non ci finì, ecco. Ma intanto io perché vedo tutto rosso oggi su Vanity Fair? C'è Lady Oscar, Julian Moore. Ah, ma perché arrivano gli Oscar? Sì, domenica. Domenica prossima, attenzione. Io ho scommesso, ecco, speriamo bene perché sennò... Ah, perché secondo te è una scommessa? Sì. Ah, cioè proprio te hai dato tutto Julianne Moore perché vincerà tutto. Miglior attrice. Sì. E se poi perdi, appunto, che succede in questi casi? Cioè ti decapitano. Mercoledì mattina. È la protagonista, è la musichetta. No, è la protagonista più, come per dire, più giusta per parlare della notte degli Oscar. Quando anche non vincesse, è la donna più giusta, soprattutto grazie, per il tipo di storia che ha raccontato. Quindi abbiamo già in caso di sconfitta e scommessa persa. Non è una sconfitta una donna che ha raccontato così la tragedia di trovarsi di fronte alla perdita della propria memoria, dell'Alzheimer. Quindi è stata una scelta giusta due volte. Volevo dirvi chi vincerà, chi ha già vinto il premio Oscar. Ah, chi ha già vinto? Luca Dini. Che è un ragazzo violino. Che si è ricordato di un film di Frank Capra, in cui si dice che quando suona una campana un angelo mette le ali. Andatevi a vedere La vita è meravigliosa, un film che non si vede abbastanza. Per me Luca Dini ha già vinto. Ma vedi che c'è lo scoop anche su Vanity Fair, appena compiuto 50 anni e si sposa. Ah no, è Rosita Celentano. Vabbè, insomma, Rosita Celentano. vedrai tu Vanity Fair, vedrai, dai tempo al tempo. Vabbè. La Paola Saluzzi, la signora Paola Saluzzi alle 3 oggi è su Sky, ovviamente. Su Sky e ci lanciamo su tutti i temi che hanno a che spartire con Isis. Fermate le scappe. Ti dobbiamo risalutare coi fuochi d'artificio. Bacio. La signora Saluzzi sposata. Saluto lei, saluto Luca Dini e ci sentiamo alla prossima. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. E allora, sono le 7:18 minuti, anzi 19 minuti ormai, e siamo pronti a leggere i giornali. Oggi torneremo sul tema Libia, avremo ospite Chicco Testa, cercherà di farci capire anche quanto sono profondi i nostri interessi in Libia. Avremo ospite Massimo Fini, che come sapete non fa mai sconti con i suoi pareri controversi al vetriolo, che fanno discutere, ma noi siamo qui per discutere, per dialogare. Dalle 8:15, e ora andiamo sui giornali. È mercoledì 18 febbraio e i titoli si dividono sempre sul tema Grecia. Come il Sole 24 Ore, Atene apre al piano europeo, aiuti estesi per 6 mesi, questo è il titolo di prima pagina. Ma anche il Corriere della Sera, l'ultima mossa di Tsipras, chiede 6 mesi in più per il salvataggio, ma si tratta ancora. Anche Repubblica, Tsipras all'Unione Europea, basta minacce, ma Atene tratta. E poi l'ISIS arretra, caso Libia all'ONU, questo è il titolo del Messaggero. Mentre soluzione politica per la Libia, così apre la Stampa. Il Giornale invece, arriva la bomba umana, siamo nel mirino, il titolo. Come sempre un po' ti porta quel piccolo fardello sulle spalle. Il piano dell'ISIS, scafisti, kamikaze e invasione di immigrati. Vabbè, mentre invece l'apertura di Libero, e da qui voglio partire, è così pagavo in nero politici e VIP di sinistra. È un colpo di scena al processo di appello nei confronti di Giuliano Soria, che è l'ex patron del premio Grinzane Cavour, e che al processo d'appello, dopo essere stato lontano dall'aula al primo grado, lui che è accusato di peculato, malversazione di fondi pubblici, maltrattamenti, violenza sessuale ai danni di un suo ex domestico, si è presentato alla corte d'appello e ha lanciato un atto d'accusa contro quella che definisce la macchina del premio letterario. Politici, attori, scrittori, giornalisti che a suo dire avrebbero preteso soldi in nero e benefici per partecipare alla manifestazione. Tutti i giornali ne parlano, il Corriere della Sera, Soria contro scrittori, attori, politici, presero soldi in nero dal Grinzane. E sul Fatto Quotidiano c'è anche un'intervista a Giuliano Soria, viene intervistato dal Fatto Quotidiano e dal Giornale, per la verità. Professor Soria, chiede il Fatto, cosa intendeva in tribunale parlando dei suoi sostegni a Chiamparino? Ecco perché i nomi sono questi che ha fatto, devo fare un flashback. Il presidente della regione Piemonte Chiamparino, all'epoca sindaco di Torino, l'ex presidente della regione Bresso, Mercedes Bresso, gli ex assessori alla cultura Leo e Oliva, ma anche attori Giancarlo Giannini, Eleonora Giorgi, Charlotte Rampling, Michele Placido, Franco Nero, Isabella Ferrari, Stefania Sandrelli, lo sceneggiatore Vincenzo Cerami, gli scrittori Philip Roth, Alain Elkan, Corrado Augias, cioè questi nomi che ha fatto di persone che prendevano soldi anche in nero, ha buttato tutto nel calderone. Allora, professor Soria, chiede il Fatto, cosa intendeva, parlava dei sostegni a Chiamparino? Intendevo i soldi per la campagna elettorale, nel 2006 gli ho dato 25.000 euro. Ma ne è certo, certo, io sì, e se lo ricorderà anche lui, avevo sempre un testimone con me. E poi, confermo, ha detto lei che le decisioni le prendeva con Mercedes Bresso e Roberto Moisio. Confermo, sì, decidevano con me, non mento, perché dovrei inventare cose, ho testimoni. E ha dato sostegno pure alla Bresso? Sì, anche alla Bresso, ma meno. E all'ex assessore Giampiero Leo, anche a lui, e tanto, mandava i suoi ragazzi e davo 10.000 euro e poi tornavo a chiederne. Tutti questi soldi lei da dove li prendeva? Anche dal mio portafogli. Ovviamente voi potete immaginare, le reazioni sono quereliamo, è tutto falso, per il momento è la versione di Soria. Augias sia su Repubblica, giornale per cui tra l'altro scrive, ma sia sul Corriere della Sera. Eccolo qui, Luca Mastrantonio va a intervistare un po' tutte le persone citate. Augias, la cosa mi sorprende, parliamo di migliaia di euro ricevute per rimborso spese o come premio letterario di cui ho dato conto all'Agenzia delle Entrate. Ma sono passati 10 anni, sono sconvolto, nella mia lunga vita nessuno mi ha fatto un'accusa del genere, siamo alle calunnie, non riesco a seguire i ragionamenti, sono sconvolto e devo assorbire la cosa. E allora Giancarlo Giannini, Sorel, ma non so chi sia, un premio, ma mi coprono di premi, io lo querelo così mi prendo i suoi soldi, neri. Questo Giancarlo Giannini. Mentre la prende molto sul serio anche Michele Placido, sporgerò querela a Sorì. Che vuol dire che nel mondo dello spettacolo si paga tutto in nero? Che vuol dire che il piccolo di Milano che ospiterà la mia compagnia mi pagherà in nero? Ma che fesseria è? E anche su Repubblica ci sono le interviste a Corrado Augias, a Giancarlo Giannini, a Michele Placido, cioè le persone contattate e che dicono noi lo quereliamo. Ovviamente staremo a vedere, questa certo è la versione che ha creato e ha gettato un po' di scompiglio oggi sui giornali. A proposito di soldi diversi, torna la vicenda delle oggettine, perché la Procura di Milano ha ordinato la perquisizione per 29 ragazze delle famose cene eleganti, perquisite le testimoni pagate da Berlusconi. Secondo la Procura sono ancora attualmente pagate, sono pagate per la Procura per comprarne il silenzio sulle famose cene eleganti o sulle notti di Arcore. Torna Repubblica, come tutti i giornali. Repubblica però insiste un po' di più su questo. Emilio Randaccio, superville, spese folli, contanti in Svizzera, così si blinda il silenzio sulle notti di Arcore. Certo, proprio nel giorno in cui in Francia, invece, e questo parallelismo non è che lo faccio io, lo fanno tutti, lo fa Libero con Filippo Facci, lo fa Il Foglio, lo fanno i vari giornali, il giorno in cui Dominique Strauss-Kahn è stato prosciolto dall'accusa di sfruttamento della prostituzione per le orge o le serate libertine, come lui le chiamava. Gli stessi accusatori, la pubblica accusa dice non ci sono prove che ci fosse uno sfruttamento della prostituzione. Nicoletta Tiliakos sul Foglio in prima pagina fa un pezzo dal titolo Il peccato non è reato, riepiloga tutta la vittoria di Strauss-Kahn, la giustizia sulle cene eleganti. Scrive Nicoletta Tiliakos: peccati e reati continuano a non essere sinonimi dalle parti di Lille in Francia, e il rappresentante della pubblica accusa al processo ha dimostrato di esserne consapevole. Di tutt'altra tempra certi suoi colleghi italiani. La Procura di Milano ha ordinato la perquisizione delle abitazioni di una ventina delle ragazze passate alla storia come oggettine, ospiti delle cene eleganti nella dimora dell'ex premier Berlusconi, tuttora accusate di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Si ostinano a non confessare di aver ricevuto denaro dal Cavaliere in cambio del silenzio. Ma non sfugge ai procuratori il tenore di vita elevato di alcune di loro. E vuoi che non ci sia lo zampino di chi cerca di coprire mercimoni e festini a luci rosse spacciati per decenti convivi? Assolto dall'accusa di prostituzione minorile e concussione, il Cavaliere è comunque colpevole del reato di cena elegante. Così Nicoletta Tiliakos sul Foglio. E oh, ma che hai combinato Arrigo Sacchi? La Rig ha fatto questa dichiarazione pubblica che è finita sul Guardian, accuse di razzismo. Ha denunciato che nelle primavere, cioè nelle squadre, diciamo appena prima delle squadre principali delle società di calcio, ci sono troppi stranieri, in particolare troppi neri. Ovviamente subito è partita l'accusa di razzismo. Arrigo Sacchi oggi si difende in un intervento sulla Gazzetta dello Sport, pagina 19, a dire e scrive: allora, ho 68 anni, non sono mai stato razzista e mai lo sarò. Si conosce la mia storia professionale, si sa che ho allenato Gullit e Rijkaard, grandi giocatori di colore coi quali mi lega una forte amicizia, ma sono convinto che uno dei problemi del nostro calcio siano i troppi stranieri, circa 1300, cioè il 53% del totale. Storicamente, tutte le volte che c'è stata un'invasione di giocatori stranieri, la nazionale e i club sono andati male. Quindi volevo lanciare un problema anche etico. Sono preoccupato per ragazzi che vengono da paesi poveri dell'Africa, Sud America, Est Europa, trascinati da un sogno, ma purtroppo per molti di loro il futuro difficilmente sarà roseo. In questo caso, quali contraccolpi psicologici subiranno? Il mio voleva essere solo un allarme su un problema etico e non solo calcistico. Sono veramente stupito di quanto accaduto, ma anche sereno, perché, lo ripeto, non sarò mai un razzista. L'Arrigo. Sta di fatto che la polemica ha varcato i confini dell'Italia, è diventata veramente mondiale. Oggi dedica questo anche il buongiorno Massimo Gramellini. Sulla Stampa, in prima pagina, siamo tutti stranieri, è ufficiale, il calcio dà la testa. Il presidente federale Tavecchio ha tracciato il solco con la celebre saga di Optipo Ba e del mangia banane, no? Ma Tavecchio è Tavecchio, ora invece tu cuoque a Rig, l'allenatore straordinario o straordinero, che divulgò alle folle l'umiltà, l'intensità, si dice preoccupato per la presenza di troppi stranieri di colore. E poi, per parare l'accusa inesorabile di razzismo, sventola a mo' di medaglia l'aver fatto giocare 30 anni fa nel Milan Rijkaard. Sai che sforzo mettere in campo un fuoriclasse sorvolando sulla pigmentazione alla Carlo Conti della sua pelle. Pure il felpato Salvini l'avrebbe fatto. Salvini ieri, tra l'altro, un po' sottotono rispetto alle performance razzistiche abituali, tanto che si è limitato a denunciare un piano di pulizia etnica dei padani a vantaggio dei neri. Comunque la confusione sotto il cielo è tale che il primo a dichiarare il proprio imbarazzo per la sbandata leghista di Sacchi è stato Mino Raiola, procuratore di Balotelli, che sembra uscito da un casting dei Soprano e normalmente sta al buon gusto come un rutto da pasta ai fagioli a una sonata per pianoforte di Mozart. Questo Gramellini, non male oggi, non male. Ma siamo al momento dell'articolo che vi fa sare della giornata, quello da mani sul volante se siete alla guida, quello che ci racconta Adelaide Pierucci a pagina 15 del Messaggero. È stata sgominata da Carabinieri e Finanza con 12 indagati una banda che faceva le divise per i carabinieri fatte in Cina. Pure le divise, poi arrivavano, tagliavano l'etichetta, avete pure le divise dei carabinieri fatte in Cina. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, il Rossello Brescio dell'informazione. Oh, eccolo qua. E allora, alle 7:35 minuti, ovviamente i giornali parlano anche moltissimo della Libia. La situazione in Libia è molto, molto confusa. Sapete che il governo italiano, dopo aver in qualche modo fatto qualche dichiarazione sul possibile intervento militare, ora punta alla diplomazia, come racconta Francesco Bei in un retroscena di Repubblica, pagina 2. Renzi dice: l'obiettivo, il primo passo è compiuto, ora il messaggio passato è di mettere al centro il problema Libia. La Libia sta ottenendo la centralità del problema e questo è il primo obiettivo. Certo, leggere incubo kamikaze, i barchini kamikaze, questa sarebbe la nuova strategia, ma guardate che anche il Messaggero lo mette a pagina 7. L'ultimo rischio secondo l'intelligence è questo: i kamikaze del mare, barconi senza guida carichi di esplosivo. Io mi chiedo sempre se non ci sia poi delle esagerazioni in quello che viene dipinto come realtà, creando del panico magari a qualcuno che legge, qualcuno sta studiando di mandare dei barconi kamikaze contro i nostri militari che vanno a soccorrere i migranti. E questo è per esempio la minaccia che arriva dagli 007 e questa è la minaccia che viene lanciata dai giornali. Sta di fatto che il piano di sicurezza nazionale è quello che fa portare 4.800 soldati in più, come scrive Repubblica, pagina 3, per proteggere soprattutto gli obiettivi sensibili a Roma, ma anche uno degli obiettivi sensibili diventa l'Expo, che parte a Milano il 1 maggio. Certo, poi il Vaticano, le sinagoghe, la Farnesina, quindi il Ministero degli Esteri. Sta di fatto che ieri, racconta sempre Repubblica, nella cerimonia per l'anniversario dei patti lateranensi si sono incontrati il governo italiano e le autorità vaticane, in particolare il cosiddetto ministro degli esteri del Papa, il cardinale Parolin, e racconta a Repubblica che sia Gentiloni, ministro degli esteri, ha assicurato non pensiamo a un attacco unilaterale, sia il ministro Pinotti ha rassicurato il cardinale, sia Alfano, che avrebbe detto questa frase, secondo Repubblica, al cardinale Parolin, preoccupato per la sicurezza su San Pietro. Alfano, due punti, le assicuro, eccellenza, che non c'è alcun rischio concreto per l'Italia. I nostri servizi ci spiegano che Roma viene considerato un bersaglio virtuale, tra virgolette. In ogni caso stiamo raddoppiando tutto il dispositivo di sicurezza interno. Così Alfano al cardinale Parolin, segretario di Stato. E quindi Roma è un obiettivo virtuale, questo dice Alfano. Per orientarsi su quello che sta succedendo in Libia vi segnalo Guido Limpio a pagina 6 del Corriere. È un'interessante analisi con anche una mappa della Libia con tutte le fazioni in guerra. Guido Limpio e Farid Adli hanno scritto questo articolo. Le tribù, le fazioni, le città-stato in guerra tra loro, Tripoli, Sirte, Derna, Tobruk, una interessante analisi di quella che è la Libia attualmente, molto frammentata, molto frantumata. E invece vi segnalo anche su Repubblica l'intervista che Jean-Pierre El-Kabbah ha fatto al presidente egiziano Al-Sisi per Europa 1, diciamo canale internazionale, e che viene riportata da Repubblica. Al-Sisi è molto attenzionato perché intanto ha fatto i raid aerei sulla Libia, no? Dopo che i jihadisti hanno decapitato 21 egiziani copti. E dice Al-Sisi: noi non avremmo voluto che l'Egitto intervenisse militarmente, non avremmo voluto intervenire all'interno dei confini libici nel rispetto della sovranità della Libia. Ma quanto è accaduto è un crimine, un vero vile atto terrorista e mostruoso. No, assistere alla decapitazione dei nostri fratelli in Libia e non agire sarebbe stato impossibile. Si tratta di una forma di autodifesa prevista dal diritto internazionale e dalla comunità internazionale e dalla tradizione. Noi non permetteremo loro di uccidere i nostri figli, di tagliare la gola ai nostri figli innocenti. Quindi lo rifarete? Dobbiamo rispondere di nuovo, però dobbiamo farlo tutti assieme per fermare l'estremismo e il terrorismo in Libia. Per questo Al-Sisi chiede una risoluzione del Consiglio dell'ONU affinché una coalizione intervenga in Libia e non siamo i soli a doverlo fare. Questa è la richiesta di Al-Sisi. Intanto si guarda gli affari. Il caos libico blocca commercio e lavori. Questo è il titolo di pagina 6 del Sole 24 Ore. Laura Cavestri racconta che secondo alcune stime la guerra sarebbe costata 1 miliardo di danni alle nostre aziende, alle aziende italiane. Tra l'altro ci sono ancora alcuni italiani lì che tengono duro, soprattutto legati ad alcune aziende. Certo, però la situazione è terribile. 1 miliardo. E poi c'è il tema dell'immigrazione. C'è il rischio, come detto, di centinaia di migliaia di migranti che potrebbero essere utilizzati anche come proprio arma di pressione da parte dei jihadisti, ma soprattutto succede una cosa abbastanza incredibile, a mio modo di vedere, e ne scrive Repubblica, pagina 9, riguardo ai migranti in Italia. Ne stanno arrivando tanti, il nord è in rivolta, i centri sono al collasso. Il prefetto di Treviso ordina ai migranti invitati a disperdersi. Io non ci volevo credere, ma succede davvero questo. Fabio Tonacci, pagina 9 di Repubblica. Tra il Viminale e gli enti locali c'è guerra e tutta questa emergenza è contenuta in un dispaccio bollato urgentissimo inviato dalla prefettura di Treviso al Ministero dell'Interno e che ha come oggetto la sorte di 39 migranti, tra questi 10 sono minorenni, che sono stati trasferiti 2 giorni fa da Agrigento in Veneto e per i quali non si trovava una sistemazione, al che il prefetto Augusta Marrosu scrive al Ministero: «Sono stati fotografati dalla questura». È stato fornito loro un pasto dalla Caritas, sono stati sottoposti alle visite mediche e poi sono stati invitati a disperdersi. A tal fine sono stati fatti salire su un pullman diretto alla stazione ferroviaria. Proprio così c'è scritto: invitati a disperdersi. Fate ciò che volete. Questo con tanto di firma del prefetto di Treviso, perché qui non possiamo tenervi. Non è un bel segnale di un paese che dovrebbe, come dire, affrontare una situazione che è una situazione non facile, non facilmente gestibile, anche perché in Europa, diciamolo francamente, se ne fottono. Caro Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Questa mattina una associazione con una notizia. L'Europa. Insomma, sì, no, pensavo al verbo più che altro. Sono rimasto un po' colpito dal verbo. Ma guarda, in termini europei, adesso stavo proprio leggendo questa interessante analisi di Moria Longo sui salvataggi alla Grecia, parliamo delle vicende ateniesi, e appunto lì si apprende da questa analisi, da tanto di numeri e ricostruzioni, come effettivamente i salvataggi della Grecia siano stati un aiuto per Francia e Germania più che per Italia e Spagna. Ma ti rimando poi alla lettura del Sole 24 Ore, caro Alessandro, e ti volevo dire a proposito appunto di conti e bilanci, oggi ho anche 16 pagine sulle novità degli OIC. Tu sai cosa sono gli OIC, naturalmente, sono stati spiegati in classe più e più volte, sono i principi contabili nazionali, quindi dell'organismo italiano di contabilità, importanti oggi, 16 pagine per spiegare le novità sui bilanci 2014. E vedo che nonostante i nostri siparietti, caro Alessandro, Radio 24 cresce negli ascolti. Lo riporta anche, sì, ne riferiamo anche sul Sole 24 Ore, ma anche su altri giornali, a quello che ho potuto vedere, appunto mi ha piacevolmente sorpreso, nonostante. Noi ce la mettiamo tutta per abbatterlo. Noi si faccia di tutto per peggiorare invece l'immagine di questa radio, specialmente da parte mia. Comunque ti voglio dire che domani daremo, come ogni giovedì, il giornale della famiglia, spieghiamo le valute. Quindi importante, segnatelo. Hai studiato la prima puntata? Ho studiato deflazione, inflazione. Studiato. Ecco, no, non ti interrogo per oggi, però mi raccomando, domani, seconda puntata con i meccanismi delle valute. Hai visto che sulla tassa sul contante c'è un po' di ripensamenti? Qualche dubbio, sì. Viene messa, però, viene tolta. Ma vediamo, sai che bisogna aspettare il 20 febbraio. Il 20 febbraio è la data spartiacque per tutto, però si proseguirebbe invece sull'abbandono dello scontrino, ripeto, dal 2017, non portiamoci avanti già oggi magari. Non esagero. Per il passaggio in realtà allo scontrino digitale, quindi non è proprio un abbandono, diciamo, tout court, ma l'abbandono del pezzetto proprio di carta o carta chimica. Hai visto che sull'IMU e TASI alla fine, insomma, hanno fatto i conti all'agenzia e abbiamo pagato di più. In sostanza l'avevamo un po' detto, mi sembra di capire, sul Sole 24 Ore. E c'è anche un problema di evasione, stimato di poco superiore ai 4 miliardi. Tu quanta parte puoi attribuirti di questi 4 miliardi? 1 o 2 miliardi? No, sempre quei 1 o 2 eurini. Sono quelli che continui a far ballare dovunque, insomma, questi 2 eurini. Si chiama contabilità creativa. Sì, più che altro però di basso importo, dovresti mettere qualcos'altro per diventare veramente importante, così parleremo magari anche di te, così come parliamo di Veneto Banca oggi diffusamente sulle pagine di Finanza e Mercati. Ma ti voglio dire, oggi giornata molto importante perché c'è da capire cosa c'è nel mille proroghe, che sai che è sempre un provvedimento gravido di novità, ti invito poi a leggere su norme e tributi. Ma in ultima cosa ti dico, di nuovo ieri a Torino tensioni dei tassisti contro Uber. È vero. Noi riferiamo nelle pagine di Imprese e Territori la vicenda, la contrapposizione tra le categorie è molto lontana da una composizione, mi par di capire. Ma perché ti dico tutto questo? Perché è il momento di lanciare il traffico. Milan, ma tu al mattino bevi? acqua, bevo acqua. E il bombardino di Peter Pescapè quando me lo porta, ovviamente, quando si ricorda, cioè è tipo l'80% delle volte. Allora, la politica fa registrare le consultazioni dal Presidente della Repubblica Mattarella per parlare di riforme, eccetera. La prima volta che i partiti vanno dal neo Presidente della Repubblica, tutte tranne Salvini. Salvini dice: che ci vado a fare, a chiedergli il numero del parrucchiere? Stupore e anche irritazione fanno notare da tutti i giornali al Quirinale. Ma la notizia, tra l'altro, riguarda una persona che è diventata, ha quel suo momento di celebrità oggi sui giornali. Si chiama Antonio Zagari, e, o Antonino per meglio dire, che ha scritto, 66 anni, una lettera al Presidente della Repubblica. L'ha portata a Mattarella Nichi Vendola, leader di SEL. Chi è Antonino Zagari? È un ex imprenditore che viaggiava in Jaguar e che a 16 anni aveva imparato a fare impresa dal papà in Calabria. Poi, grande crisi del 2008, ha perso tutto. E perché ha scritto una lettera e tutti lo vanno a cercare? Il Secolo XIX, eccolo qua, lo trova con Ilario Lombardo. Perché volevo raccontare, da ricco imprenditore a senza tetto, il mio dramma come il dramma di altre persone. Io rischio lo sfratto, prorogato fino al 24 marzo, ma e si può vivere in un paese dove una donna di 83 anni viene buttata in strada e succederà domani? Racconta Antonino Zagari in un racconto che dice si tramuta spesso in pianto, come scrive Ilario Lombardo sul Secolo XIX. Lui racconta la sua vita, il lavoro perso, l'azienda persa, lavora a 60 anni che diventa un'utopia, lui ci prova, si spacca anche la schiena come magazziniere in una coppa, poi si ammala e non gli resta che il tetto sotto cui dorme, la casa in affitto che il padre non aveva mai voluto comprare e dalla quale ora lo vogliono sfrattare. In questa lettera ha raccontato la sua storia al Presidente della Repubblica Mattarella. Trovate anche una piccola intervista sulla stampa, a pagina 8. L'autore è sempre Ilario Lombardo, perché come abbiamo detto più volte, il Secolo XIX e la stampa sono anche due giornali che lavorano in sinergia da questo punto di vista. Di Atene abbiamo detto, ci ha detto molto Mauro Meazza. Vi invito anche a leggere ciò che Vittorio Darold scrive a pagina 3 del Sole 24 Ore, cioè Syriza cosa vuole il partito di Tsipras? Un margine, più margine sul surplus primario, vuole anche più tempo, vuole 6 mesi. Certo, come si suol dire, ad Atene qualcuno la tocca piano. È comparso su un giornale vicino al partito Syriza, il giornale L'Alba, una vignetta nella quale il ministro delle finanze Schäuble è ritratto in divisa nazista, mentre dice: insistiamo a fare sapone con il vostro grasso, stiamo discutendo dei fertilizzanti ottenuti dalle vostre ceneri. Una vignetta di una vergogna assoluta, tanto che lo stesso Tsipras ha dovuto ammettere che per quella vignetta Schäuble ha perso le staffe e ha definito la scelta del giornale una scelta infelice. Schäuble ha rivelato che il ministro delle finanze greco si è vergognato per la caricatura. Insomma, tentativi di chiedere scusa, ma in questo braccio di ferro finanziario ci stanno questi colpi veramente bassissimi. La vignetta io l'ho pubblicata sul mio profilo Twitter Alino Milan, potete vederla, la trovate anche sui giornali. Schäuble raffigurato in uniforme nazista. Di Veneto Banca, ha detto Mauro Meazza. Di Banca Etruria c'è molto anche qui. Vi segnalo sul Corriere della Sera, Mario Gerevini, un articolo di una pagina sui conti di Banca Etruria, pagina 11 del Corriere della Sera. Emerge una cifra che, se confermata, sarebbe incredibile. Certo, scrive Gerevini, è una cifra che trapela dal silenzio seguito al commissariamento della Banca Popolare dell'Etruria. La cifra è questa: 400 milioni. A tanto ammonterebbe la perdita, certo un'indiscrezione che dice il Corriere, una perdita di 400 milioni, cifra che trapela dal religioso silenzio seguito al commissariamento della Banca Popolare dell'Etruria. Le dimensioni della perdita, per ora congelata, sarebbero questi: 400 milioni di euro. Oh, invece per quel che riguarda la cronaca che si lega alla politica, c'è un articolo di Franco Bechis, vice direttore di Libero, che scrive come il piano di Renzi sia nominare Antonella Manzione, che spesso è stata nominata una cosiddetta definita del giglio magico, cioè ex capo dei vigili di Firenze, poi ex capo legislativo del comune di Firenze quando Renzi era sindaco, ora messa a capo dell'ufficio legislativo di Palazzo Chigi con Renzi premier. Renzi ora vorrebbe nominarla al Consiglio di Stato. È il sogno della vigilessa promossa da Matteo, ora al Consiglio di Stato. Franco Becchis in prima pagina di Libero, a caccia di un pass per la poltrona a vita, giura Libero, Renzi è pronto a nominarla consigliere di Stato Antonella Manzione. Vabbè, staremo a vedere che succede anche da questo punto di vista. Per quel che riguarda la cronaca, ci sono anche cronache minori, ma noi siamo al momento conclusivo, al momento più importante, al momento in cui eleggiamo il premio La carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Anche oggi è un trafilettino che ho trovato sul giornale, riguarda Dudu e Dudina, il barboncino e la barboncina di Arcore, di Berlusconi e Francesca Pascale. Un gruppo, un'associazione di animalisti, l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, ha detto: danno troppi pasticcini a Dudu, li denunciamo, con tanto di intervento del veterinario di Dudu, che difende i padroni e dice: no, sono molto bravi a cibare Dudu e Dudina. Ma chi se ne frega? 24 mattino. Eccoci qui alle 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Devo dire che se si leggono oggi i giornali, l'abbiamo fatto in rassegna stampa, alcuni articoli, forse si pensa che ci sia anche un po' di esagerazione nel racconto di tutto quello che sta succedendo. Guardate un po' il Messaggero: secondo la nostra intelligence l'ultimo pericolo viene dal mare. I kamikaze dell'ISIS sui barconi, pronti a farsi esplodere contro le nostre navi che vanno a soccorrere i migranti. Oppure gli obiettivi sensibili blindati, arrivano 4.800 agenti in più, soprattutto in Vaticano, Farnesina, i centri sensibili di Roma, ma anche l'Expo che dal 1 maggio aprirà a Milano. Allora ci si chiede, stiamo forse esagerando? Anche perché Repubblica, in un retroscena pagina 2, scrive che Alfano, incontrando ieri nella cerimonia con il governo per i patti lateranensi, incontrando il segretario di Stato Vaticano Parolin, il cardinale Parolin, gli ha detto, rassicurandolo: guardi cardinale, nessuna minaccia concreta, Roma in realtà secondo la nostra intelligence è solo una minaccia virtuale per quelli dell'ISIS. Allora, questa minaccia è virtuale, è concreta? Sullo sfondo di tutto ciò ovviamente c'è la Libia, dove si punta molto alla diplomazia. Niente armi, ma diplomazia. L'ONU, insomma, si chiede l'intervento dell'ONU. Lo chiede anche il generale egiziano e presidente egiziano Al-Sisi, che tra l'altro un paio di giorni fa ha bombardato la Libia, ma questo perché, dice in un'intervista pubblicata oggi da Repubblica, era una ritorsione. Non potevamo accettare che 21 dei nostri egiziani concittadini venissero decapitati così senza fare nulla. Tutti che chiedono l'ONU. Intanto saluto Massimo Fini. Buongiorno Massimo, come stai? Non c'è male, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori. Allora, è scrittore, firma del Fatto Quotidiano, del Gazzettino. Tra l'altro è uscito un suo libro, ti ringrazio di avermelo mandato, lo leggerò con attenzione. Una vita, è un'autobiografia che parla insomma della tua vita nel giornalismo, sempre un po' molto controcorrente, anche nelle tue posizioni che qui esprimi liberamente. Per esempio, Massimo, questa è una guerra certamente figlia di un'altra guerra, quella del 2011. Sì. A proposito, che pensi di quelli che fecero quella guerra? Beh, penso quello che dovrebbero pensare tutti, cioè che noi siamo andati, seguendo i francesi in questo caso, quindi servi anche di francesi, oltre che degli americani, siamo andati a destabilizzare un paese eliminando Gheddafi, con conseguenze che adesso vediamo tutti, no? Quindi il governo di allora, non napolitano come scrive qualcuno, il governo, in quel caso Berlusconi, ha la sua parte notevole di responsabilità. Però ci fu una risoluzione dell'ONU. L'altro giorno il ministro di allora, La Russa, ha detto in un'intervista si mobilitò la Francia. Poi ci fu una risoluzione dell'ONU. A quel punto noi, se siamo nell'ONU, non possiamo non far parte, voglio dire, di un intervento di quel tipo internazionale. Ma non lo so. Io, per la verità, questa risoluzione dell'ONU non so quando è avvenuta, ma è avvenuta a cose già fatte. Poi, sai, l'ONU conta quando serve, non conta quando non serve. L'aggressione alla Serbia, qui siamo fuori da tutta la questione musulmana, avvenne con la nostra partecipazione, senza nessuna autorizzazione a ONU. Però possiamo dire che, voglio dire, Sarkozy è il primo responsabile di questo, non per buttare il problema o la palla dall'altra parte. No, certamente Sarkozy è il primo responsabile, aveva evidentemente gli interessi che erano contro i nostri interessi, perché bene o male, anche se forse in modo troppo plateale, perché questo era il modo di essere di Berlusconi, noi comunque con la Libia di Gheddafi, che non era più pericoloso, non era il Gheddafi di 30 anni prima, terrorista, eccetera, avevamo ottimi rapporti, Leni era lì. Sì. E quindi è stata proprio una cosa suicida, voglio dire. Ma Leni è lì, ma tra l'altro tra poco di interessi e di affari parliamo. Quindi tu che faresti a Gheddafi? Cioè, andrebbe processato addirittura, no? Chi? Scusano, Gheddafi, Sarkozy. Ma guarda, forse per me, per fortuna io non sono un decisore mondiale, ma tutte le leadership che hanno attaccato senza ragione alcuna i mondi musulmani, adesso sto qui a rifarti tutta la lista perché è lunga, oppure te la faccio: Afghanistan, Iraq, Somalia e quindi alla fine Libia, questi andrebbero vuol dire che non credo ai processi internazionali, ma visto che li fanno all'AIA, andrebbero certamente processati. Allora, hai citato gli affari. Oggi il Sole 24 Ore parla di 1 miliardo di denari che le nostre aziende potrebbero perdere in virtù di questa guerra. Voglio salutare uno che di affari se ne intende, Chicco Testa. Buongiorno, spesso il nostro ospite. Anche lui, tra l'altro, è in libreria con un libro che voglio citare, Contro la natura, là però tra parentesi. Tra l'altro entrambi siete editi da Marsiglia. Ma no, è una coincidenza, questo lo dico chiaramente. Chicco Testa, 1 miliardo potrebbe essere, cioè cosa perde l'Italia da un possibile conflitto o comunque da una situazione caotica in Libia in termini di affari? Beh, no, ha già perso ormai. La Libia era un partner commerciale molto importante per molte imprese italiane, per molti imprenditori, sia in termini di export sia in termini di commesse per lavori pubblici, costruzione di strade, ospedali ed altre cose. Beh, tutto questo ormai se n'è andato, non c'è più un italiano in Libia. Tu dici 1 miliardo, io ho letto un'altra cifra, ho letto addirittura la possibilità di una riduzione del nostro export di circa 3 miliardi. Questo su Repubblica, parla Repubblica, vabbè, cita 3 miliardi, le cifre sono chiaramente stime. Sì, vabbè, però ovviamente sono cifre anche molto difficili da stimare, no? Però non c'è dubbio che appunto Libia per noi era un mercato di export e di lavori piuttosto importante. Ecco. E poi c'è il problema del petrolio, in cui la Libia non è più così importante come lo era un po' di anni fa, però insomma è sempre importante, anche perché quando viene a mancarci il petrolio, se ci viene a mancare il petrolio, il gas libico, poi bisogna girarsi da un'altra parte, dove ci si gira, verso l'Algeria, che è un altro paese in trouble, diciamo, con molti problemi, o verso Russia, dove c'è un problema tra l'Europa e la Russia per via dell'Ucraina. Quindi Ma tu hai capito perché la Francia fece questa guerra per far cadere Gheddafi? Si è mai scritta una pagina di verità su questa storia? Ma guarda, io penso che tutti fanno riferimento agli interessi economici della Francia, sicuramente sì, però per riprendere il punto sollevato da Fini, io credo che lì ci sia stata una gigantesca sottovalutazione o sopravvalutazione, secondo il lato in cui la vuoi vedere, di che cosa sarebbe potuto scaturire dal cosiddetto movimento delle primavere arabe, no? Se ricordate i passaggi, i titoli, la percezione di quegli anni, sembrava che queste primavere avrebbero portato al potere, diciamo, una nuova classe dirigente, diciamo più democratica, diciamo così, no? Vi ricordate i giovani nelle piazze, sì, eccetera, eccetera. E invece praticamente questo non è avvenuto in nessun paese. E l'Egitto è un caso dove alla fine dobbiamo dire grazie a un signore, a un militare che ha ristabilito un po' di ordine e che sembra avere le idee chiare contro il fondamentalismo musulmano, ma non è certo il risultato di un processo democratico. Io che seguo sempre con attenzione anche ciò che scrive Massimo Fini, so che starà sobbalzando in questo momento sulla sedia. Massimo Fini ha una posizione molto chiara sulla figura del generale al-Sisi, e cioè il presidente dell'Egitto, cioè colui che per Massimo Fini, anche per altri, ha fatto letteralmente un colpo di Stato quando i fratelli musulmani in realtà erano andati al potere vincendo le elezioni. Però Massimo Fini, adesso al-Sisi pare il nostro amico, il nostro alleato, la persona da sostenere invece che da criticare. Ma anche questo è una conseguenza di ciò che facciamo. Voglio dire, al-Sisi è un tagliagole al pari dei tagliagoli ufficiali, che sono quelli dell'ISIS, perché non ha solo fatto un colpo di Stato, ha messo in galera tutta la dirigenza dei fratelli musulmani, ne ha uccisi 2000, non c'è nessuna libertà di nessun tipo in Egitto, e adesso noi ci vediamo costretti a essere alleati di costui. Diceva Testa, le primavere arabe, bisogna fare alcune distinzioni, perché ci sono state primavere in cui il popolo si è ribellato autonomamente, penso alla Tunisia, e lì le cose sono andate abbastanza bene. La Libia non è certamente un caso, non sì. Si è liberata da sola, siamo arrivati noi con bombardieri. Sì, ma a questo proposito, tu però, se puoi attaccare Berlusconi si sa che lo fai. No. In questo caso, nel senso, in maniera... Però in questo caso effettivamente molti ci fanno notare anche via SMS che Berlusconi era contrario a questa guerra. Poi è chiaro, aderì per la questione, però è sempre stato contro Sarkozy, gli è sempre stato imputato di essere troppo amico di Gheddafi, anzi, no? Sì, lo era amico di Gheddafi, mi ricordo una dichiarazione, non mi ricordo più di quale leader musulmano, che dice sono due uomini che vanno assolutamente d'accordo, eccetera, eccetera. Però tu sei il premier, a questo punto le decisioni spettano a te, se ci sei andato, ci sei andato. Poi lui, mi ricordo che quando Gheddafi fu poi linciato, perché questo avvenne, disse sic transit gloria mundi, una dichiarazione direi piuttosto cinica, visto i rapporti che aveva con il Rais libico. Comunque adesso il problema è un altro, e cioè come difendersi. Come difendersi, e qui lo affronteremo anche bene dopo la pubblicità. Prima però vorrei fare una domanda a Chicco Testa, invitando anche gli ascoltatori, ovviamente, se avete la vostra da dire, 800 24 00 24. Chicco Testa, ma che conviene dal punto di vista nostro, se vogliamo anche buttarla dal punto di vista economico, nel fare una guerra o nel fare una missione internazionale dell'ONU, chiamiamola così? Beh, cosa conviene? Allora, la missione dell'ONU, partiamo da lì, no? È ovvio che qualsiasi cosa si faccia in Libia non deve apparire come un atto di aggressione occidentale nei confronti di un paese, perché questo potrebbe avere la conseguenza di ricoalizzare tra di loro forze musulmane che oggi sono, diciamo, divise. Ricordo che due paesi, diciamo, fondamentalmente musulmani, come l'Egitto l'altro paese, che è la Giordania, hanno recentemente bombardato le postazioni dell'ISIS, no? Quindi dare, diciamo, una copertura diplomatica a qualsiasi cosa si faccia, adesso non so ancora cosa si intende fare, diciamo, è assolutamente necessario, e il primo che lo chiede è proprio l'Egitto. E seconda questione, noi abbiamo un problema, perché se diciamo, la situazione di disordine a questo punto fomentata, spinta e ancora più alimentata dovesse portare qualche centinaio di migliaia di immigrati verso il nostro paese, avremmo un bel problema. I paesi confinanti, hanno la Tunisia e l'Egitto, hanno sigillato i confini con la Libia. noi non siamo in grado di sigillare questi confini al momento. Cosa si potrebbe fare? Una cosa la dico, perché ricordo una cosa che abbiamo già fatto. Quando abbiamo fatto un'azione in Albania, anni fa, e abbiamo distrutto praticamente i barconi, i gommoni, eccetera, eccetera, da cui allora venivano i flussi migratori verso l'Albania. Qui in teoria vengono sequestrati, ma che è successo? Due giorni fa addirittura ci hanno sparato. Appunto, perché conoscono i santuari. Cioè, bisognerebbe fare un'azione militare, proprio diciamolo brutalmente, un'azione militare, perché per distruggere i barconi si distruggono magari buttando una bomba, di fare un'azione militare e distruggerli. Questo potrebbe essere una proposta concreta. La traduco io brutalmente, per far capire a tutti. E qui succede invece che due giorni fa hanno sparato la capitaneria di porto facendosi restituire un barcone. Adesso si legge il rischio di un'escalation per cui partono con i kamikaze addirittura contro le nostre motovedette. Succede che i centri di accoglienza dei migranti sono al collasso, come scrivono tutti i giornali, per cui a Treviso, giuro, io non ci volevo credere, il prefetto di Treviso, scrive oggi Repubblica, ha fatto una circolare ufficiale della prefettura, appunto, invitando 39 migranti a Treviso a disperdervi, disperdetevi. Non sappiamo come tenervi qui, sono stati mandati da Agrigento, non ci sono le strutture, non sappiamo come tenervi, disperdetevi, andate, sono state accompagnate alla stazione con l'ordine, insomma l'invito a disperdersi. Ecco, questa è la risposta. 24 mattino. Sono le 8:38 minuti, allora siamo qui con Chicco Testa, siamo con Massimo Fini. Gli ascoltatori ai quali tra poco darò anche la parola ci stanno chiamando in tanti, come sempre all'800240024. Allora, Massimo, tu chiedevi ora che si fa. Ti posso far sentire intanto quello che ci ha detto ieri il vescovo Martinelli, vescovo di Tripoli, uno dei pochissimi rimasti lì, per capire anche quanto e quali siano le forze in campo da parte dell'ISIS. Senti Martinelli, quanti sono? Cioè, sono così potenti in Libia in questo momento? Forse un centinaio, che poverini, sono gente manipolata. Però se fossero un centinaio, cioè lei ha sentito, si parla di intervento militare, di ONU, un centinaio sono pochissimi. No, questa è tutta una montatura anche questa. Io non capisco che cosa vogliono fare con interventi militari. Non è il caso, non è opportuno e non vale la pena fare tutta un intervento di questo tipo. Allora, non vale la pena. E poi, un centinaio adesso, io credo che Martinelli, che vive lì da 40 anni, abbia un po' sottovalutato la minaccia, forse a Tripoli. Massimo Fini, però, che si fa? E sono davvero così potenti questi dell'ISIS? Ma sì, ma non tanto per i militanti che hanno, che sono comunque tanti, vedi, Sirte l'hanno conquistata perché sono arrivati e Sirte si è messa, gli abitanti di Sirte si sono messi con l'ISIS. È una sorta di epidemia che si espande, e questa è la cosa veramente inquietante. Voglio dire, si espande ovunque, si espande in Egitto. Ma che si fa quindi? Si va a bombardare? Ti dico secondo me cosa, ma dico per esempio anche la repressione dei fratelli musulmani in Egitto è ovvio che porta acqua al mulino dell'ISIS. Ci sono 10.000 egiziani che sono nelle file dell'ISIS, a parte quello che succederà poi in Egitto. Io non credo che l'ISIS arrivi attraverso i cosiddetti migranti, non ha bisogno di questo, può farlo in tutt'altro modo. Quello che noi dobbiamo aspettarci purtroppo è una serie montante di attentati di tipo terroristico nei nostri paesi. E quindi è su questo che dobbiamo focalizzare. Per creare il terrore, creare il panico. Devo dire che meno male che c'è il mare, lascia perché se ne arrivassero 2.000 prendono il palazzo d'inverno in poco. Ma no, quale sarebbe il nostro palazzo d'inverno? No, dico quello. Lascia anche molto perplessi quello che è successo l'altro giorno, no? Dove una motovedetta italiana ha dovuto restituire il barcone. Ha restituito il barcone, siamo militari, sono militari. Ho capito. Ma hanno detto che avrebbero compiuto una strage se avesse aperto il fuoco. Però questo è un problema. Chicco Testa, che si fa? Voglio voglio dire, siamo, Massimo Fini ci fa capire che siamo poco propensi e in grado di difenderci. Venissero in 2000, conquisterebbero il Palazzo d'Inverno. Beh, adesso questo magari non credo, però Fini ha ragione sul rischio di attentati interni, per i quali non c'è bisogno che vengano dalla Libia. Diciamo che c'è un reclutamento interno nei vari paesi europei, come sappiamo, di persone che sono qui magari da anni, eccetera, eccetera, addirittura di qualche occidentale che manifesta simpatia per questo fenomeno e poi fa quello che è stato fatto a Parigi o che è stato fatto recentemente in Norvegia. So, quindi ovviamente non è quello il problema. Quando io parlavo di pericolo di migranti è che insomma, in un paese già disordinato, ulteriormente disordinato, potrebbe esserci sicuramente gente che vuole scappare o gente che è spinta a venire in Italia per aumentare il tasso di debolezza, di confusione, eccetera, eccetera. Voglio dire, ma se il prefetto di Treviso arriva a fare una circolare dicendo disperdetevi, certo. che dobbiamo fare? D'altronde? Dobbiamo partire da un presupposto, insomma, che diciamo intanto che la nostra volontà di accoglienza deve tenere conto del fatto che ci scontriamo con degli immigrati clandestini, perché se uno vuole venire in Italia e ha un passaporto eccetera eccetera ci viene, insomma non è che è una frontiera, no? E quindi bisogna che inaspriamo le nostre misure di controllo. Questo vuol dire per esempio che in un futuro dobbiamo aumentare i nostri budget per la difesa e la sicurezza, e questo già comporta un problema per un paese come l'Italia, che non ha certo grandi spazi di spesa pubblica. Sì. No, le polemiche che abbiamo avuto sugli F-35 eccetera eccetera sembrano già alle nostre spalle, no? Ma adesso si parla, adesso qualcuno si dice servirebbero una volta, siamo italiani di fronte a queste cose, reagiamo anche in modo. Non ho l'espertise sufficiente, non voglio dire fesserie, quindi forse ne sa di più di me Massimo Fini per dire cosa va fatto là. Il cuore dell'ISIS non è in Libia, no, certamente. Non so quanta gente c'è lì, ma probabilmente anche qui ha ragione. Ma sicuramente sono infiltrati e prendono. Sì, poi c'è un effetto bandwagon, voglio dire, la gente sta con chi ha le armi in mano, no? È chiaro che non è che può ribellarsi, schierarsi, eccetera, eccetera, però certamente se ci fosse una coalizione di willing, come si dice, no? In cui ci sono paesi musulmani, tra l'altro anche l'Arabia Saudita, che parliamoci chiaro, negli anni passati è stato un finanziatore importante di vari movimenti filo-islamici, che comincia ad essere seriamente preoccupata da questo, ma e a prendere le distanze. No? Quindi, chiaro, fatevi sentire qualche ascoltatore che sono lì e magari ci danno qualche spunto in più. Francesco da Roma, buongiorno Francesco. Buongiorno a voi. Allora, due cose rapidissime. Sì. Uno, ritengo che la ricostruzione storica fatta sull'intervento italiano, l'appoggio del governo Berlusconi contro Gheddafi, sia abbastanza, diciamo, falsa, e penso che questo venga condiviso da molti ascoltatori. Sappiamo tutti, perché è un fatto recente, che Berlusconi si era opposto con tutte le forze. Sì, possibili. Sì, ma l'abbiamo detto, però esatto, Fini dice nel momento, però poi, scusi Francesco, dice, certo, prego. L'abbiamo detto, si era opposto, ma a un certo punto ha aderito anche lui alla risoluzione dell'ONU e ha partecipato anche lui, controvoglia magari, ma Massimo Fini dice, era il premier, poteva dire, sono contrario e non interverrò mai. Comunque, guardiamo al presente. Poi sì, che Napolitano l'ha costretto ad aderire a una risoluzione ONU. Questo è il primo punto. Il secondo punto è l'intervento militare. Il problema è politico, non è militare. Io sono nel settore, diciamo, della vendita di materiale militare. Sì. L'Italia è pronta, ha le attrezzature, ha dei corpi speciali altamente qualificati per poter intervenire, quindi, come diceva giustamente il dottor Testa, potevano intervenire come hanno fatto in Albania, andando direttamente a far fuori i barconi. Ma la cosa più grave, l'ultimo episodio in cui la guardia costiera è stata costretta a restituire il barcone, È grave. È una scelta politica, perché guardi che le politica, nostre navi o forse hanno degli ottimi missili, basta che si alzava l'elicottero e facciamo fuori quel Certo, barcone. Francesco, ma l'elicottero non c'era. Ieri un ufficiale della Guardia Costiera, sotto anonimato, al giorno ha spiegato: avevano le armi quelli della Guardia Costiera, ma stavano trasferendo, avevano appena trasferito 200 migranti dal barcone alla nave. Si sono presentati questi qui in un altro barchino a dire col Kalashnikov, a sparare al pelo d'acqua: ridateci il barcone, che in genere se no viene sequestrato e portato in Italia e rottamato, diciamo. E l'ufficiale dice: se avessimo aperto il fuoco noi militari, sarebbe successo il rischio di una strage, cioè 200, c'erano 200 migranti, capisci Massimo Fini? Questa è la ricostruzione. Però per te è pericoloso quello che abbiamo fatto, è un segnale, sì, è un segnale di debolezza. Oddio, ripeto, non è pensabile che questi arrivino qui con i guerriglieri armati, perché nonostante tutto non lo credo. È una minaccia, ma anch'io non credo che succeda. Assolutamente possibile, sperare. No? Tutte queste fanfaronate di al-Baghdadi su Roma, il Vaticano, sono fanfaronate. Io credo che noi non si debba intervenire là, nel senso che io su questo ho sempre detto che c'è il diritto di autodeterminazione dei popoli, e quindi poi da vinca il più forte, chi ha la popolazione. Ma certamente se ci attaccano col metodo terroristico, allora sì, allora possiamo e dobbiamo rispondere. Sentiamo, anche là. Sentiamo Eugenio da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. La cosa è molto facile. A me magari Eugenio. No, nel senso, io vedo, abbiate pazienza, ho due piccole considerazioni. A me sembra che dobbiamo aspettare di avere, se tendo adesso Fini, un qualcosa che succede in casa per fare un qualche cosa. A me pare che noi già ci sta succedendo qualcosa in tutti questi anni, nessuno ci ha assistito in tutti questi sbarchi, ad esempio. Noi siamo abbandonati a noi stessi da un bel pezzo. Primo. E quindi? No, dico, se uno avesse voluto infiltrare chiunque in tutti questi anni l'avrebbe già fatto. Beh, oddio, quando sbarcano ci sono i controlli, in teoria, delle persone che sbarcano. Certo, non saranno dei controlli. Sfido chiunque a trovare controlli di persone senza documenti, di cosa alla fine. No, il problema vero è che mi sembra che in Italia abbiamo paura di difenderci e di usare un'arma in qualche maniera, perché sennò siamo politicamente scorretti. Ma più che altro la Costituzione, la guerra... Voglio farla molto, molto veloce, sì. Non voglio disturbarvi. Sì, la troppo. Faccio. No, è molto semplice. Noi non abbiamo in questo momento la possibilità di avere un corpo dei carabinieri presente più capillarmente. Io parlo da Bergamo, sì. Noi abbiamo delle situazioni dove ormai ci sono episodi di malavita e sì, però questa è un'altra questione, mi scusi Eugenio, è un'altra questione, cosa. Ma non è legato all'ISIS, no, dai, è legato all'immigrazione, lei dice all'immigrazione. No, abbia pazienza. Il discorso è, non abbiamo i soldi in pratica per mantenere un apparato di qualche tipo, figuriamoci un apparato militare. Ah, va bene, io dice arrivare. Questo, quelli vuole arrivare, le spese, cioè il taglio alle spese militari. Guardate che però adesso sempre questa idea che noi italiani ci buttiamo addosso la croce, diciamo che siamo degli straccioni, ma non è che siamo proprio degli straccioni. Se proprio dobbiamo dire militarmente, tra noi e l'ISIS, gli straccioni sono di gran lunga quelli dell'ISIS, quindi non diciamo cose che non sono vere. Marco da Firenze, buongiorno. Marco? Sì, buongiorno Alessandro. Senta, io molto velocemente, la possibilità esiste, basterebbe proteggere i confini relativamente alle acque nostre, sì, con due porte aeree, magari, perché una porta aerea può contenere fino a 5-6 mila persone, sì. Fare una sorta di filtro lì, curarli, chiaramente fare entrare quelli che chiedono asilo politico e quelli che poi sono a posto per rimandare indietro, curarli. Si riportano magari da un'altra parte della Libia. Ma mi sembra un po' difficile, Marco. Cioè, voglio dire, sembra molto facile messa così, ma non è così. No, ma è facile, è tutto fatto con la poesia, così si sovraccarica un'isola come Lampedusa, si sta riempiendo i centri d'accoglienza in una maniera spropositata, si mette in condizioni crisi e gli abitanti lì, e comunque poi c'è qualcuno e gli dice andate dove vi pare. Vabbè, lei dice quindi mettendo due porta aeree la risolviamo così, risolviamo il problema: chi è sulla porta aerea, chi è profugo, chi non è profugo, tu dentro dentro, tu fuori. Non so, mi sembra un po' un mondo utopico. Però la ringrazio per questa proposta, caro Marco. Io mi devo fermare qui ringraziando Chicco Testa. Voglio ricordare il suo libro Contro la Natura, edito da Marsiglio. Così anche come Massimo Fini, per essere stato con noi, anche lui ha scritto questo libro, Una vita, è la sua autobiografia, insomma, la vita del giornalista, spesso controcorrente. Grazie per essere stati con noi. Torneremo su questo tema, come sempre, perché purtroppo è sempre lì alle nostre porte. 24 mattino. Eccolo il nostro momento, è il momento di ospitare come sempre, come ogni giorno ormai da mesi, un ascoltatore, un'ascoltatrice, qualcuno insomma che ci segue dall'estero, che è attaccato a Radio 24, a 24 mattino e ci segue dall'estero. Oggi voglio salutare Marcello, buongiorno Marcello. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Dove sei tu? Sono chiamo da Dublino. Dublino, in Irlanda. Sì. Salutami Bono. Sai che io avrei voluto essere nella mia vita Bono. Cioè, no... sì. No, un'ottima carriera. Nel senso, non avrei voluto essere un cantante, avrei voluto essere Bono degli U2, e così, e ognuno ha le sue passioni e le sue ambizioni, quindi magari tu... Mi dicono che è Juventino Bono, tra l'altro. No, come Juventino? Ma come? Ma che gli fregherà Bono del calcio? Vabbè, vorrei essere stato Bono, giusto per cambiargli almeno la fede calcistica. Che ci fai Marcello a Dublino? Allora, io sono a Dublino in realtà da poco, da un mese e mezzo, lavoro in una grande azienda dell'IT, che naturalmente ha la sede qui, l'headquarter di mia qui, quindi, e mi occupo di online advertising. Oh, che bello, ma è una città molto... raccontaci un po', perché si racconta poco dell'Irlanda, è una città in crescita, una città vivace. È una città sicuramente in crescita, vivace, nel senso che molte grandi multinazionali, diciamo, hanno portato l'headquarter qui, quindi la sede principale qui in Dublino, quindi stanno assumendo tantissimi ragazzi, cioè tantissime persone, sì, ci sono tanti giovani da tutto il mondo in realtà, quindi è una città abbastanza dinamica, molto piccola, gira facilmente a piedi o in bicicletta, è una città molto vivibile. Il clima com'è? Sì. Fa freschino adesso? Diciamo che il clima non è proprio quello dei migliori. Stamattina sarà un ambiente soleggiato, però sì, ecco, è abbastanza ventoso, più che piovoso, ventoso direi. Vabbè, sei lì da poco, quindi hai un'immagine ancora un po', una percezione un po' relativa di quello che è l'Irlanda, ma la cosa che ti ha colpito positivamente sbarcando lì? Ma in realtà, allora, gli irlandesi li ho frequentati ancora molto poco, ma quel poco che li ho frequentati, per esempio, mi ha colpito molto che rispetto agli inglesi, dove io sono stato anche un po' a Londra nella mia vita, sono molto più coinvolgenti, nel senso ti coinvolgono molto di più, quindi se vai per caso entri in un pub, subito ti coinvolgono in conversazioni, cosa che per esempio non mi aspettavo da gli anglosassoni, per questo forse gli irlandesi non sono completamente... Ma lo fanno perché sei straniero? Perché sono incuriositi? No, molto friendly, molto friendly, molto socievole. Questa è una buona cosa. Sì. Un messaggio, tra l'altro guarda che arriva un giallo, uno ci scrive un messaggio in questo momento dicendo Bono è milanista. Certo. Non lo so, ma c'è un giallo internazionale su Bono. Sì, sicuramente. Vabbè. Soprattutto poi dopo quest'anno, forse. E dopo quest'anno. Tu di dove sei, Marcello, in Italia? Io sono di Milano. Di Milano. E la cosa che non rimpiangi dell'Italia, da lì, da Dublino? Ah, sinceramente, completamente in opposizione rispetto a una ascoltatrice che chiamava da Londra l'altro giorno, la troppa flessibilità che c'è in Italia. Questo è una cosa che non rimpiango. Non rimpiangi, cioè troppa flessibilità in Italia. Non siamo... rimpiango di aver dovuto lasciare le persone che amo, mia sorella che oggi compie 27 anni, vi faccio gli auguri. Come si chiama? Nicole, tanti auguri da Marcello, in diretta, facciamo una cosa di radio anni 70 proprio, da Marcello, esatto. Auguri a Nicole, 27 anni. Marcello, ti devo salutare, mando un abbraccio ovviamente a Dublino, a tutta l'Irlanda, entra in un pub stasera, abbraccia tutti per noi, va bene? Ok, grazie. Grazie, mille, noi ci sentiamo domani.